chi ha paura del passato remoto. Cosa ci fanno le galline allo zoo? Le parolacce si possono insaponare? Ma soprattutto, quante storie possono stare in tasca? Radio Città Fujiko presenta Storiette Tascabili. Massimo Vitali legge Luigi Malerba. La maiala. Quando i ragazzi dicevano che era una tigre, lei era contenta. Quando dicevano che era una vipera, lo era un po' meno. Quando la chiamavano maiala, si arrabbiava moltissimo e cominciava a distribuire una pioggia di 3 e di 4 sul registro di classe. I più maligni dicevano che l'insulto peggiore era chiamarla col suo vero nome: Bucicchio. La professoressa Bucicchio insegnava italiano, latino, greco, storia e geografia, ma più che per insegnare andava a scuola tutte le mattine per vendetta. Doveva vendicarsi del marito che ogni estate scappava con la segretaria, della figlia che a 16 anni se n'era andata a vivere fuori di casa perché non la poteva soffrire, ma soprattutto doveva vendicarsi di essere nata molto brutta e cattiva, con i labbroni e il naso a patata. Non è colpa mia se sono cattiva, diceva qualche volta parlando da sola davanti allo specchio. Invece era proprio colpa sua, lo dicevano tutti, compresi gli altri professori. La compativano perché in fondo, molto in fondo, faceva pena. Ma i ragazzi più che altro la temevano e la chiamavano tigre, vipera e maiala. A lei non dispiaceva di essere temuta, perché credeva che un insegnante, per essere veramente bravo, doveva essere veramente cattivo. Fra gli allievi della professoressa Bucicchio ce n'era uno molto alto, il più alto della classe, e anche il più distratto, con gli occhi grandi e la mano pesante. Quando scriveva i compiti in classe, bucava sempre i fogli con la penna e questo la faceva infuriare come una tigre e incattivire come una vipera. Lo chiamava alla cattedra e gli faceva le domande più difficili d'Italia, come una vera maiala. Questo ragazzo la metteva ogni volta in imbarazzo. Era gentile, non l'aveva mai chiamata maiala e nemmeno vipera e nemmeno tigre. Forse per questo lo odiava più degli altri, o forse perché si era accorta che durante le sue lezioni, noiose come la peste, la sua mente viaggiava lontana in luoghi fantastici che a lei sarebbero rimasti sempre sconosciuti. Più in là dell'Ariosto o del più che perfetto, la fantasia della Bucicchio non era mai arrivata. Prima delle vacanze di Natale e di Pasqua dava sempre una quantità di compiti a casa per paura che i ragazzi si divertissero. E alla fine dell'anno raccomandava ai suoi allievi di raccogliere in un quaderno quello che lei chiamava la voce delle vacanze, e cioè un diario con tutto quello che di bello e di brutto avevano fatto durante l'estate. Durante l'estate poi la poveretta rimaneva a Roma nella sua casa in periferia e si annoiava sia in luglio che in agosto. Primi di settembre andava una settimana al mare, da sola, per curare i reumatismi, la lombaggine e la malinconia, ma soprattutto per abbronzarsi un pochetto e poter dire che era stata al mare anche lei, come tutte le altre signore. Dopo le vacanze estive, la professoressa Bucicchio ritornava a scuola con la sua mezza abbronzatura e la sua doppia cattiveria. Subito dopo l'appello chiamava alla cattedra qualche allievo perché le facesse il riassunto della voce delle vacanze. I ragazzi raccontavano il mare, la campagna, i viaggi, i giochi, le letture, gli spettacoli, le simpatie, ma lei non era mai soddisfatta e incominciava subito dal primo giorno a distribuire sul registro dei 3 e dei 4 in italiano. Un giorno chiamò alla cattedra quel suo allievo alto. Il ragazzo si alzò dal banco portando con sé una grande conchiglia invece del quaderno con il diario. Disse che lì dentro c'era la voce delle vacanze. L'aveva fatta ascoltare anche ai suoi compagni, anche alle sue compagne. Uno a uno avevano sentito il rumore del mare sulla spiaggia, quello delle onde che si infrangono sugli scogli, il sibilo del vento fra i pini marittimi e qualcuno aveva sentito perfino la voce dei gabbiani al tramonto. La professoressa lo guardò con sorpresa e irritazione. Per un momento si sentì quasi umiliata da questo ragazzo distratto e simpatico. Il ragazzo approfittò di questo momentaneo smarrimento per invitarla a ascoltare anche lei la voce del mare, del vento e dei gabbiani dentro la conchiglia. Presa così alla sprovvista, la professoressa Bucicchio non sapeva cosa fare, ma si vergognava di dire no a una richiesta così innocente. Così alla fine prese la conchiglia e la accostò all'orecchio. Qualcosa si sentiva veramente, dei rumori lontani, un ronzio strano. Rimase in ascolto. Le parve di sentire un colpetto di tosse, poi una voce gentile che somigliava a quella del suo allievo che stava in piedi lì davanti a lei e lo guardava con i suoi grandi occhi smarriti. Finalmente la professoressa Bucicchio sentì dentro la conchiglia una voce chiara, chiarissima che diceva: Maiala!